Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Siamo tutti un po' talebani, nel senso che c'è sempre qualcosa diverso per ognuno di noi che proprio non sopportiamo e verso cui vorremmo che si adottassero provvedimenti drastici. Ecco, io divento talebano quando si parla di traffico. Considero il traffico cittadino alla stregua del virus Ebola e divento una bestia quando mi trovo impantanato nel traffico. E poi i mezzi pubblici sono luoghi d'incontro, mentre le strade è più facile che siano luogo di scontro, se mi passate la metafora. E d'altronde, ne abbiamo parlato settimana scorsa, 4.000 morti all'anno sulle strade sono qualcosa più, direi, di una metafora. Eppure è quasi impossibile indurre una persona abituata a muoversi con l'auto a usare i mezzi pubblici. Stasera allora ci chiediamo come fare, sapendo bene che molti di voi che siete all'ascolto in questo momento siete proprio alla guida di un'auto, e ne parliamo con Alberto Fiorillo, che è responsabile delle aree urbane di Legambiente. Buonasera Fiorillo. Buonasera. Allora, premesso che le toccherà il compito di moderare il giornalista questa sera, la domanda è questa: come si fa a spezzare questo circolo vizioso? Più auto uguale più strade più parcheggi, più strade più parcheggi uguale più auto. Come se ne esce? Anche perché è evidente che le alternative, almeno sulla carta, esistono, non è che ci si debba inventare chissà che. Sì, io faccio spesso un esempio. Anche se mi rendo conto che il sorriso che può scatenare negli ascoltatori è quasi automatico, però Venezia, noi abbiamo a Venezia la più grande area urbana al mondo no auto, priva, certo, di automobili. È ovvio che lì c'è un ostacolo fisico, che è la presenza dell'acqua, però è altrettanto ovvio che la presenza dell'acqua si può virtualmente riprodurre in qualsiasi altra città. Mi spiego meglio, cioè una città senza come inondarla, Vicenza, insomma, sì. Una città come Vicenza, che ha un diametro massimo più piccolo di quello di Venezia, potrebbe tranquillamente riprodurre la mobilità veneziana chiudendo non il centro storico, ma tutto il centro abitato alle auto, e sviluppando quel sistema di mobilità lagunare che prevede delle strade riservate esclusivamente al mezzo pubblico o al mezzo privato, e il resto della città invece destinato alla circolazione a piedi, con un'aggiunta che spesso sottovalutiamo, perché tutti quanti noi chiediamo sempre più parcheggi, invece a Venezia il numero dei parcheggi delle imbarcazioni è contingentato, vengono messi non proprio all'asta ma quasi certo, di tanto in tanto. Il basso numero di parcheggi ha fatto sì che la popolazione, per motivi economici e per motivi di convenienza, alla fine decida di utilizzare principalmente il mezzo pubblico. D'altra parte, a New York il 70% degli abitanti non ha l'automobile, e New York è, al contrario di Venezia, una grande metropoli. Dopodiché noi in Italia siamo pieni di città delle dimensioni di Venezia o anche più piccole. Assolutamente, cioè diciamo che approssimativamente i tre quarti dei capoluoghi italiani stanno comodamente dentro la Venezia lagunare. Quello che manca però non è tanto la capacità di progettare delle città del genere, quanto la capacità di decisione di cambiare decisamente strada e di avere delle città che hanno un aspetto, una qualità della vita, una qualità degli spostamenti radicalmente diversi. Noi abbiamo delle strategie immediate che potrebbero dare risultati straordinari da un punto di vista del miglioramento della mobilità, e che in alcuni casi sono anche strategie che non costano soldi ma che li portano. Il primo è quello di reprimere la sosta vietata, che ormai è unanimemente accettata, soprattutto nelle grandi città, cioè, italiane. Dove si sgara lì si multa. Lì bisognerebbe multare. Questo, allora, renderà, questo le porta all'odio di metà dei nostri ascoltatori. Prego. Sì, no, lo so, ne sono consapevole, però probabilmente mi porta l'amore dell'altra metà, sì, perché sì. È unanimemente accertato che una sola auto in doppia fila crea degli imbuti straordinari che fanno perdere minuti e minuti al trasporto pubblico e agli altri utenti della strada. È solo un problema di volontà della pubblica amministrazione. Se le multe diventano sistematiche, ci si mette una settimana, è sperimentato, a cambiare l'abitudine di chi lascia la macchina un attimino con le quattro frecce accese in mezzo alla strada. Questo è un provvedimento. L'altro provvedimento che può dare risultati straordinari è quello delle corsie preferenziali degli autobus, perché gli autobus viaggiano in mezzo al traffico nel 98% dei casi. Almeno uno dice, se sto sulla mia auto sono sicuro che sto seduto. E abbiamo capito, quindi insomma, percorsi riservati ai mezzi pubblici e anche qui multe per chi non li rispetta, perché anche in questo assolutamente, caso... assolutamente. Altro provvedimento che si può mettere subito in cantiere, anzi c'è una petizione promossa da dal movimento che si chiama Salva i Ciclisti, che è proprio stata lanciata in questi giorni, è quello di imporre il limite di 30 all'ora, altro sorriso da parte degli ascoltatori, in tutti i centri abitati. Ora, eppure laddove è stato fatto ha sempre riscosso, sempre qualche mese dopo l'attuazione, grande approvazione dagli abitanti di queste aree, dagli abitanti, dai commercianti, certo. Che, tra l'altro, bisogna ricordare che la velocità media di spostamento oggi nelle città è di 15 km/h, quindi non, in realtà non si rallenta il traffico, si evitano invece degli intasamenti dovuti a continue accelerazioni e frenate, e qui entreremo tutto dentro un altro discorso. Senta, una cosa importante, l'universalità. Faccio un esempio: a Londra, quando si è deciso di far pagare un ticket per l'accesso a una vasta area del centro abitato, si è detto pagano tutti tranne i residenti, i mezzi pubblici e i mezzi con la sirena. In Italia, quando si fa un provvedimento di limitazione del traffico, l'elenco delle deroghe spesso è lunghissimo: i veterinari, i medici in servizio, quelli che vanno a vedere la partita, quelli che hanno l'auto Euro 5. Questo fa sì che i cittadini, secondo me anche con una qualche ragione, alla fine cercano di essere dei derogati, ma questo gli amministratori lo fanno soprattutto per motivi elettorali. Non è che lo fanno perché pensano che davvero un mare di deroghe abbia degli effetti positivi sui provvedimenti che mettono in campo. Non sono nemmeno così convinto che anche a livello elettorale ci perderebbero, perché se poi il provvedimento funziona e la cosa viene riconosciuta, un po' di coraggio paga anche dal punto di vista elettorale, io credo. Faccio mia questa affermazione. Va bene, grazie Fiorillo. Grazie Melis, buon lavoro. È tutto, a domani.